Firenze. Io sono i baracchini, andate al mamma. Oh, Lugariè. Uova! Ehi, dimmi. Ah, mi, tutte e due qua scelta. Ho detto, ma quel computer, ci vediamo, te lo smonto, me lo metti in vendita, cosa vuoi fare? Se no se rompe la mondezza, In questi giorni non posso aiutarti. C'ho della politica a finirmi, che questa mattina mi sono messo a posto con l'antenna là, che ce l'avevo proprio sulla gola. Ci devo riandare, devo mettergli un cavo in soggiorno. Poi c'ho un tablet da chiudere, un telefono. Sono poi un po' impegnato, ma è la prossima settimana, là. Poi questo giovedì c'ho la visita al dentista, un casino. Stavolta è stata qua la panoramica. Com'è andata? Com'è andata? È andata, Mi vuole vedere il dentista adesso. No, lui, perché lo voglio vendere, te l'ho detto, voglio comprare un portatile, capito? Perché sto togliendo tutto da qua. E questo computer mi ingombra. Voglio un portatile da usarlo quando ne ho voglia. No, da avere il tuo monumento, no? Che senza essere sempre spento, capito? Quindi, niente, io te lo do, lo resetti tutto. Ho formato tutto in ordine, lo sai, perfetto, me lo vendi. Quello che riusciamo a racimolare, racimoliamo e mi compro un portatile. Beh, vabbè, vediamo, là. Il lavoro lo facciamo comunque, lo resettiamo, puliamo tutto dentro, la ventola, cambiamo la pasta di raffreddamento, lo mettiamo a posto. Che c'è qua? Dai, io devo rimanere in ascolto, devo fare roba, perché devo farmi rimborsare dei soldi, là. 35 euro, 75 euro. Da Sarietti, Luca c'è anche qua, dai. Vai Luca. Luca, mi è sembrato c'era Luca. Ripper. Ehi, sono andato un attimino dentro. Kappa. Va bene, va, no, sto eliminando quel computer grande della Lenovo, è bellissimo, è funzionante al 100%, però non lo uso, capito, è sempre in Chivia, monumento, mi sta occupando una scrivania libera, per niente, capito, allora lo do a Luca, me lo faccio vendere, mi prendo un portatile, quando mi serve lo uso. Beh, il portatile, certo, è comodo sì il portatile. In Kiwi c'ha un monitor da 19, tastiera, mouse, tutto in Kiwi, tutto sempre in ordine, per carità, lo accendo ogni tanto a dare un'occhiata su eBay, però non ne faccio niente, ho una ragione, questa unità sotto, e quella base, siccome quella scrivania devo darla, che serve un amico per mettersi la radio, capito? E lì non metto più niente, il computer me lo tengo da una parte, conservato, qua non mi serve, lo metto sulla base, me lo accendo e guardo. Giusto. E Cingo, non si è sentito, sarà morto o no? Molto assente Emanuele in questo periodo, non so se perché non sta bene o chi non ha più gana, boh, non lo so. È come Tonino, la stessa cosa, non lo so più, ci stiamo sentendo spesso al telefono, ma su WhatsApp, però non alla radio lo sto sentendo molto molto poco. Cinco! E Luca Gagliarella invece? Luca Gagliarella Gaganella, ha detto che stava facendo cosa? Imbuttendie, cosa vuoi che sia subente? Sempre imbuttendie. Ah, ma niente, HI. A voi che si fate male a Cittifele, gli auguri, ti cazzo di immagna. Cazzo, vendi sempre più la tentazione, dimmi che te, il tuo 430 e 440 ci credi. Cazzo, da quando c'ho questa radio, sempre il tuo radio. Vedi, 440 vendono, perché purtroppo, sai, che si inizia a dare problemi, dopo è un casino. Poi è un casotto, lo devi spedire, per forza. Lo so. No, questa è fenomenale la radio, veramente, c'è una bella ricezione, trasmissione, funziona bene. Sono sempre questa accesa, gli altri sono sempre spente. Sono sempre spente, questa funziona veramente molto molto bene. Tieniti il 4.30, ma il 4.40 dallo, là, dallo prima che inizia a rompere appunto, a fare problemi VCO, eccetera, eccetera. Dimmi, chef, mi usci. No, mi è stato revisionato 2 anni fa, te l'ho detto. Ma se mi ricordo se 2 anni, 1 anno e mezzo, boh, 3 anni. Ma no, non da molto. Ha fatto Fabrizio tutto, riallineato, ha fatto tutto il VCO, cambiati tutti i condensatori, tutto, perché l'ho detto che era il mio, quello lì, io l'avevo veduto a Roberto, Roberto ha lasciato un bel fermo, non lo stava più usando quando me l'ha ridato a me, e l'abbiamo provato, no, e non c'era niente, capito, la mutta, tutti i puntini, allora mi ha detto prima di dartela, te la metto a posto, l'ha lavata Fabrizio, gliela tutta revisionata, capito, poi me l'ha venuta a me, quindi è a posto la radio, completa di tutto, c'ha tutti i filtri, tutto, anche il filtro M c'ha, la scheda fonemi, tutto c'ha, completo proprio, è quella più completa di tutti i SS. Però c'è anche il discorso che il mercato è fermo, c'è anche quella di quell'amico nostro, dai, già lo sai anche tu, quanti mesi c'è lì ed è fermo, proprio, capito, ancora lì purtroppo, il mercato è fermo, poi secondo me molta gente le sta anche abbandonando, queste tipologie di radio, che prima c'era più mercato, però vabbè, è anche fermo il mercato, così che bisogna sempre rinnovare gli annunci e sperare appunto che qualcuno lo compri. Lo so, questa lui è in originale, questa te lo sto dicendo, è completa di tutto, microfono normale, l'unica cosa che non riesco a trovare, mi dispiace tantissimo, è il manuale di istruzioni, non riesco a trovarlo, io sono molto molto ordinato, ma sono sicuro che l'ho dato a qualcuno a farsi le fotocopie e non me l'ha più turrato, sono sicuro al 100%, perché c'ho la scatola, mi è difficile a me avere la scatola del 440, io c'ho gli imballi sui originali della radio. Bello, sì, introvabile proprio, sì, ma si può tentare, ma io consiglio di stare più bassi del prezzo di mercato, perché tutti partono col prezzo di mercato e non ne vende nessuno, caspita, ma tirati via 30 euro, ma 30 euro magari è capace di venderlo entro 24 ore per dire, e invece buonini tutti al prezzo di mercato e cazzichini mesi e mesi e mesi, capito? Invece in questo modo sai che vaffanculo 30 euro, però lo vendi subito. Ma io l'ho sempre detto, non ho per la lingua, tu mi conosci, io ho sempre detto che 4,40, 400 euro, il prezzo è troppo alto, capito? C'è addirittura chi lo vende 450 euro, ma è troppo alto, io non te lo compro. Io il 4,40, al massimo che l'ho venduto è 350 euro, sempre, e 300 euro il 140, capito? Anche 2,80 al 140. Ma tu non la vuoi vendere a 400 euro una radio di quella maniera lì, capito? Poi ti ripeto, ognuno libero di fare quello che vuole. Io se la vendo a 350 euro con gli imballi originali. Che se col prezzo secondo me la vendi subito, boh, mandami le foto di tutto. Di tutto, e la mettiamo. Ehi, avanti, Cagliare. Ma niente, si mangia i gacciucci. Cagliare? Gacciucci. Ma tu vieni, non gli è uguale. Favore! Sì, KK. Se ce la faccio, intanto devo salire su, prendermi la scatola del coso, così mi preparo già tutto. Ne scendo anche la scatola del 4,40, così faccio le foto, c'ho gli imballi, c'ho l'origine, guarda, mi dispiace un bel del manuale, se avessi avuto il manuale, guai, e sono sicuro che l'ho dato a qualcuno, non mi ricordo a chi, per farsi le fotocopie, non me ne ha più turrato, devo chiedere a Franco Califfo. Boh, se l'avevo dato a lui tanto tempo fa, o a Roberto, qualcuno l'ho dato comunque, l'ho dato a qualcuno e non me ne ha più turrato. Boh. Perché io sono molto molto ordinato, te l'ho detto, ho gli imballi suoi originali del 440, originali, proprio la sua scatola originale che figurati tu, col doppio imballo interno addirittura, scatola, c'è la scatola normale con le chiusure in polistirolo, no? E il suo nylon ancora originale con l'elastico e in più la scatola Kenwood, quindi è ci fai un bene di na, un bene, non sai quella scatola. Quando tu lo vendi con gli invalli originali, e poco ci ho contenti. Ti ho mandato un video. Guarda quel video che ti ho mandato e poi mi torni la risposta. A vedere. Ma il video dell'antenna, ce l'ho visto. No, vabbè, a parte quello, no, un altro te ne ho mandato. Però mi risulta che ancora non ti è arrivato. Ma il telefono aspetta. No, che un telefono ci dice. E qua, come non mi è arrivato? Sì che è arrivato. Eccolo qua, sì che mi è arrivato. Queste sono le cose del 440, delle ghiere, queste qua. Allora, sì. Sono i supporti che ho fatto dell'MC60. Guarda la differenza dall'originale a quello che ho fatto io. Avete già matessi gosa. Cosa hai fatto a fare questi affari? Come hai fatto a fare questi cosi? Con la stampante 3D. E perché quello con il nominativo mio, come l'ho fatto? Con la stampante 3D. Come te la stampante 3D? C'è alluminio lì, su cosa è? La plastica, i supporti del microfono è in alluminio, chi sono? Sono in plastica, cosa sono? Io ce li ho, non ho mai controllato come sono. Plastica, però guarda la differenza, ascolta il video e guarda la differenza dall'originale a quelli che faccio io, vedi, sia Mattesi Bucaria. Li buttiamo in terra tutti e due, oppure tiri il microfono come succede a molti che spostano il microfono e si spacca da sotto. No, a me non mi si è mai spaccato. Io ne ho comprato uno di microfono ed era spaccato, ti ricordi? E me l'avevi ordinato tu. No. Va bene, già va bene. E vedi, abbiamo anche queste cose, va bene. Almeno ci sono, le fai. Bisogna pulirsi a fare. Oh, cosa mi dici lui tu? Lo vendo o non lo vendo questo 440? Ma aspetta già. Ma uscendo sto. Aspetta già, a me non so con Gianni io. No, ho fatto Gianni, ha fatto il break, avanti già. Buonasera a tutti, doppio robot mobile. Dove sei già? Sono a casa. 9 più 20 qua, là. Lo senti lui? Qua arriva Santiago 5. Lu. La gente che fende che c'è altro video che mi sta mandando alcune cose. KK, va bene, Santiago 5 qua, non so se lui mi sente, Santiago 5. Comunque mi ha comprato la moletta nuova stasera dalla matita, ne prendo una buona, c'era anche da 20 euro, ma che se ne ha fatta, giù vado a 55 euro, ma a me c'è una bella moletta. Allora a me che giovedì attacco la mola, ne ha potuto, no giovedì ne buttiamo tutto in terra. Già organizzato giovedì mattina alle 9 sono tutti qua, ne butto tutto il sistema amatoriale in terra lui. Ah, deciso hai? Sì, ho venduto tutto Luca. Devo solo assemblare la 3 elementi 10, 15 e 20, quella grande. Il rotore è già venduto, ci hanno dato già la metà dei soldi praticamente. E poi la 5 elementi, quella per i semestri, capito? Poi tutti i connettori, i cavi, tutto venduto. Gamba. Ho capito, vabbè. Anda bene. Ehi, devo ordinato una verticale a 5 bande, capito? Sempre PKW doppio, che costa un patrimonio, comunque non me ne affrutti nulla. Meglio la verticale che le direttive, sono più molto più sereno. Non lo so, perché la verticale multibanda è lunga e oscilla parecchio. Ehi, non oscilla la gatta malaginata. Vai, non agio buono in nuda, la gente non agio più di manco, si copre anche io per la parte amatoriale, nulla, niente proprio, mi tengo la patente e la licenza e boh, dentro cassetto, nuda, mi proprio nuda. Se ho detto che voto lì anche la 510, quella VEU, ancora ne ho preso, tutto ne tolgo, tutto, da A alla Z e basta. Faccio PMR e 27, PMR come ti dico io però, così come lo sto facendo adesso. Sì, secondo me anche la famosa CP6, non so se te la ricordi, quella forse un po' resisteva, forse lì da te. Vabbè, ma lo sai quanto ne hanno venduto di quelle GPC della Remo? Ma sul palmo della mano ne hanno vendute, una grandissima stronzata di antenna, ma detto da quella persona che ti ho detto poco fa, proprio una cagata di antenna, la verticale più cagata che ci possa essere in commercio. Capito? L'ha detto proprio lui quando stavamo montando le mie. Proprio mi ha detto, ma per carità, le antenne migliori verticali sono PKW, Ultra Bin, capito? Quelle sono antenne verticali, no della Daimon, la Daimon proprio una grandissima gaggata. Davvero? No, ma io non metto più niente, no, non me ne frega niente della... C'ho solo, c'ho il dipolo 15, 20, 40, 80 ed è più che sufficiente per fare due chiacchie in Europa e oltre anche, e boh. E poi basta, VU, niente, faccio solo PMR e 27. Quindi ho goduto vostra pulizia. Sì che ti sento, chi è? Chi è che? Ma chi sei? Ah, Giulio, sì, senza segnali, sì, ma già arrivi. Gianni, vabbè. Sto parlando con Giulio. Sei contro? Ehi, ehi, stavo facendo le prove dalla parte bassa della casa e arriva, ma non ci sono dubbi. Quando uno è il numero uno in ricezione e trasmissione, arrivano tutti. No, Mucarullo, no, davvero. E allora, tutti i volte c'è uno vicino all'altro. Ciu-ciu. Capito, Lu? Già va bene. E appena mi libero, che sono un po' impegnato, là. Un po'. Se non finisco questi lavori, poi sono anche a piedi. Cazzo, mi devo spostare con un motorino, ma scuola ha messo anche pioggia. Come faccio a finirmi questi lavoretti? Sono cazzate, poi le devo finire. Ah, domani è giovedì e come oggi, Lu. Domani è giovedì e come oggi. Scusami, non avevo strampato tutto in terra oggi. Domani è giovedì e come oggi. Poi venerdì, sabato e domenica abbiamo nuovamente tempo brutto, capito? Quello sto vendendo a 4,40, con gli imballi originali, scatola originale, tutto originale. Se serve, se ti serve, mettiti d'accordo con Luca e te lo porti via. A me, non occuparci più nuda, devo dire più nuda, lo faccio i baracchini a Nanive. Proprio quando vanno in se la pigliano in cu. Aspetta un attimo, arrivo subito, mi assento. Ehi, ehi, no, intanto è sempre spento. Tengo solo il 4.30. C'ho questa, c'ho il 9.50, questo barrette che... Manco, non solo dello 4.40, ma non vedi, manco l'HF che va giù. C'è una ricezione in HF, anche in 27, qua quanto esce bene. Gianni, dove sei arrivato? Cagare, la bocca, sempre magnendie. No, ha detto che si è spostato un attimino, si è spostato un secondo. Ascolta i messaggi, Ocla, dai. Ehi, aspetta che guardo, che poi c'è anche quello di Giulio, aspetta, dammi un secondo. Oh, a proposito, non mi hai detto niente di questa radio, va bene, sì? Sì. Va bene. K, e per quello mi voglio vendere 4,40, mi tengo solo 4,30. E questa va veramente molto molto bene. Ehi, vabbè, ascolta i messaggi, mandami la foto poi su WhatsApp. K, aspetta che leggo quest'altro messaggio di coso, di bagaglio. Ehi, mi devi far organizzare, Lu, perché il 4.40 è in mezzo al 4.30, se faccio la foto c'è 4.30, 4.40, 275H, 820H, sono tutti in fila, capito? E quando faccio la foto tocca a Bugani tutto, spostarlo, invece lo devo staccare, mettere sopra la scatola e ti faccio foto della scatola e della radio sopra, capito? Ehi, vabbè, rispondimi su WhatsApp al messaggio. Ehi, sì, ma non lo mattina al microfono il mozzo. Avanza, te ne vai a che lo graffi. Cosa, cazzo? A non batterlo il coso sopra il microfono, cazzo, lo stavi battendo. Che si graffia. No, ma... Ecco, questo è l'originale che è caduto per terra. Io ce l'ho meglio. Amata signora, amata signora. No, già va bene, ottimo lavoro. Ottimo lavoro, no, io ce li ho tutti nuovi nuovi. C'è anche quello dell'MC50, c'ho l'MC50 lo stesso, è nuovo nuovo. Sia il microfono che... perché uno ce l'avevo regalato a Fabrizio, e se aveva fatto il circuito di preamplificazione, io invece ce l'ho normale, ce l'ho sull'820H che non ha bisogno di spinta, lì in FM, capito? Va benissimo. E poi quell'altra basetta che mi hai fatto comprare tu, quella ce l'ho a parte, quella ce l'ho dentro l'armadio, però è sempre plastica, di scorta l'avevo tenuta nel caso si rompa qualche basetta del microfono, ce l'ho di scorta, capito? Sì, perché a me mi si è rotto una volta, mi si è rotto, perché sono talmente fragili. Mi ricordo cosa avevo fatto, forse ho tolto il microfono sfilandolo proprio verso l'alto, non mi ricordo. Hai visto il rinforzo che ho fatto sotto? Sì, sì, ho visto, E così poi ce l'ho solo io. Gamma. Mi pare che me lo sta un po' rosso adesso, hard. Mi ha mandato una foto a Giulio. Vabbè da lui cosa ha fatto questo. Per carità, fuori di testa sei Giulio Roller. Ha fatto un'antenna. Poi tipo. No, l'ha attaccata così, col filo. Sì. L'ho visto. Vabbè, l'importante è che l'abbia messa sotto, almeno sotto Rosmet, perlomeno. Se no iniziano a scaldare i finali, capito? Quando non è fatta tarata bene. Ah, aspetta, mi devo ascoltare il messaggio che mi hai mandato. Guarda lui se senti a Giulio del PMR. No. La moletta Marchitta. Marchitta, ottimo. Ottimo strumento. Eh sì, no, c'era anche da 20 euro, 35, no. L'ho pagata 55 euro. Deve essere una fusta. No, Bosch, Marchitta, sono ultime. Ah, io anche ripeto, tu non ci crederai, io ho un trapano della Black & Decker come la moletta batteria che ho comprato, la moletta batteria che ho comprato è della Henkel e funziona benissimo. Ma ho un trapano della Black & Decker che aveva preso mio padre, ti puoi immaginare quanti anni fa, e tu attacchi la spina a passi a milli, perché non ha il regolatore di velocità o il pulsante che premi piano piano, questo non è premi parte a mille, perché uno di un vecchio modello, pesante tra l'altro, e funziona alla grande lui, ancora col mandrino a chiave, ma funziona alla grande ancora, ed è un Black & Decker, perché il Black & Decker sono sempre comunque ultime marche. Sì, sì, sì, c'ho il trapano Black & Decker, ancora non l'ho usato, c'ho quello vecchio che sto usando, finché va quello, poi una volta che si spegne, anche se si bucia il carbucci, mi resta un lampo, me la futti usa. Ciao Luca, ciao Clas, sei qua, no? E ciao l'altro Luca. Cosa hai comprato Luca? Ciao Giù, la moletta Marchitta, una moletta piccolina. Ottima, ottima marca, la Marchitta è una delle migliori come marca. No, io ce l'ho la moletta, l'avevo prestata prima al muratore, me l'ha bocciata, me ne sono comprato un'altra, l'avevo pagata 35 euro, Black & Decker, però Black & Decker è della linea professionale, non quella da Ubis, della linea professionale, 35 euro da cosa, da Bicome, e devo dire che funziona quella meraviglia, veramente, guarda. Sì, è bello. Sono le migliori. Certo, Marchitta è un'altra cosa, ma a me Marchitta non mi interessa. Io di Marchitta ho il tesseratore, poi ho l'avvitatore, queste cose qua, che ce l'ho da tanti anni ormai. Anzi, a dire la verità, il tesseratore mi si era bruciato perché stavo facendo dei lavori nell'ufficio della mia figlia e ho caricato troppo col coso, come si chiama, con quell'assa per impastare il cemento, no? Ho caricato troppo e mi ha fregato, e allora l'ho fatto riparare. Con 80 euro l'ho portato dal negozio adatto e me l'ha riparato, ma la macchina che ho io costa 170 euro nuovo, sì, che con 80 euro anche perché è nuovo il tesseratore, capisci? Sì, ma infatti giù ce n'erano delle... Sì, ho visto il video lui, ce n'erano anche da 20 euro, 35, no, ho preso quella, la prendo così vado sul sicuro, poi è bellina anche, c'è una bella impugnatura, bella. E l'altra non è che si è rotta, mi si è rotta la ventolina giù, e quando la tua attacchi dopo neanche mezzo minuto è bollente, non la puoi tenere manco in mano. Perché quella è necessaria, sono macchinette che scaldano e se non sono raffreddate si bruciano subito, certo. Non la puoi sostituire in qualche maniera questa ventolina, non ne hai ventoline che si possono adattare? No, ho provato, ma nulla va, no, non mi interessa, mi interessa la rampa, mi interessa, non la voglio più vedere. Ok, ho capito. Sì, beh, certo, io adesso stavo tanto tempo, non mi manco, ma adesso mi gioco e basta, io mi devo solo giocare. Adesso con quella moletta sai cosa faccio? Faccio la moletta per tagliare il ferro tipo tronchesina, però no, a mano libera no, tipo da banco, dai, diciamo. Oppure faccio un banco sega per tagliare legno, eccetera. Cambio il disco, faccio la cassettina, insomma il banco adatto, e lo utilizzo anche per tagliare legno. Non fai bene, no, già fanno bene, io la uso spesso, sono sincero, però quando mi sirvi. Ah beh, certo, intanto a casa pane non te la chiede, per cui avere un attrezzo o quando ce l'hai, prima o poi capita l'occasione che ti serve e non devi chiedere niente a nessuno, ce l'hai e basta, prendilo, usi e poi lo conservi dopo che hai usato, dunque va bene così. Claudio, ci sei? Certo che sì, stavo mandando due foto a Flipper. Ah ok, Luca, ci sei? L'altro Luca? Non c'è, si vede che è indaffarato, vedo sempre travagliente e fa bene. Sì, hai visto quella specie di porcheria che ho fatto? Eppure funziona, e come, alla grande. Luca Flipper. Hai visto quel pezzo di tubo che ho fatto con un pezzo di filo di telefono? Sì, infatti gli stavo dicendo a Claudio. L'importante è che l'hai attaccata al rosmetro, capito? Perché poi scaldano i finali se non è tarata bene. Esci, mi pare che andò a fare anneghiccia di antenna dal palo telescopico, dal palo telescopico, dal palo ascensore, lo abbasso e così non si sa mai. Lo so lui, per fare bene lo sai meglio di me, ci vuole l'analizzatore, è chiaro, no? E non lo smetto, funziona finché funziona, ma io non ho provato niente, hai già posto per il virus, per fare quattro copie importanti, se poi si bruciava pazienza, però ho visto che funzionava, non l'ha scaldato, ce l'avevo in mano, per cui va bene così. Non è che sono stato lì a calcolare la lunghezza del filo, quello che ho trovato ho preso, ho tagliato e l'ho avvolto a quel pezzo di tubo di plastica di coso, da impianti elettrici industriali, tutto lì, ho attaccato il PL e funziona. È chiaro che poi lo so benissimo, se non è tarata si possono bruciare sì i finali, ma quando si brucia pazienza, il PMR, intanto me lo devo comprare nuovo quello, perché quello ormai non mi va più, non mi va nel senso che non c'è il display, non vedo la frequenza, non vedo niente, perché mi era caduto, per cui si brucia pazienza, però al momento sta funzionando, ma comunque non è che continuo a usarlo così, continuo a usarlo con l'antennino suo, così almeno sono tranquillo. Certo, io c'ho un display, però è di un Baofeng che un pezzo l'ho dato a Luca, di un V5, se è uguale le puoi mettere anche quello. Sì, secondo me glielo può adattare. Non lo so, io non l'ho aperto, non so nemmeno com'è dentro, figurati. Ma l'ho detto che chi vedi la dita, costa 40, 42 euro e qualcosa, 43 euro, me lo compro nuovo, non se ne parla più. Sto guardando se, come, siccome ce l'ho già smontato, no? Perché ho appunto dato quel pezzo a Luca, per vedere com'è questo display, come cavolo si mette. Bisogna smontare anche la schedina, cioè la scheda, dai, dall'alluminio, la scheda principale, vabbè, c'ha due viti, il telaietto, va bene. Guarda che non è semplice smontare il display e ripiazzarlo, cioè, nel senso che lo devi, una volta che lo smonti, lo ripiazzi, lo punti le viti, lo stringi un po', e poi con la mano devi cercare di centrare bene tutti i contatti. Quando vedi bene il display, allora stringi le viti bene, prima da una parte e poi dall'altra. E qua c'ha due viti, perché c'ha il telaietto, non il display, e c'ha due viti che tiene il tutto. Così che poi, perché sopra c'ha degli incassi il telaietto e sotto c'ha due vitine. Magari va bene, boh, non lo so. Manda foto a me, ti consulto se va bene o no, manda foto. Poi Giulio, se non ce la farò, veramente te lo faccio io, non ci sono problemi. Ma guarda che non ci penso proprio a ripararlo, Luca, non ci penso proprio. Ripeto, ma lo compro nuovo, questo è 43 euro, cosa me ne frega, figurati. Quello lo metto a parte, potrebbe servire, magari devo piazzare l'antenna, uno dentro casa e uno sul tetto, ecco che ce l'ho. No, ad esempio quando avrò problemi di parabola oppure di antenna TV eccetera, per cui no, non c'è problema, me lo compare giù nuovo, cosa, in un paio di giorni ce l'ho, quando decido di ordinarlo in un paio di giorni è qua. E vabbè, cosa avete, ma se si può accuzzare, comunque va bene, ma mandate la foto a me, è uguale niente. Quella volta qua cosa c'ha lui, bruciato, eccomi, eccolo lui bruciato, è questo, cosa c'ha? Vabbè, là, ripetete voi, mi aspetto, ci sentiamo dopo se ci siete. Avevo un naso così, lui, avevo piazzato un dipolo. Cazzo, grazie, su, sì, occhio, e va a dire chi arma, è abitivona, sì. Signoraggio, che fa? Ma perché ora va a pannarsi? Oh, lui è manno, ma chi tu cazzo me ne ha avuti proprio, Zero doppio, quello è il doppio, ma un bel nappolo. E allora, riprendete lui, Giulio, riprendi, ci sentiamo dopo, me la sento, dai. Ok, Luca, ok. Vabbè, dai, adesso quando pensate nuovamente, ecco qua, lo prendo da tendino per il BMR e lo faccio bene, così almeno lo posso usare anche dalla parte bassa della casa, anziché dalla parte alta, così mi posso tranquillamente sedere giù, senza stare qua, sono obbligato, se voglio parlare col BMR devo venire qua, a questa altezza, all'altezza della zona notte, se no non riesco a farmi sentire. E però con l'antennino, a quanto sembra, funziona anche dalla parte bassa. Adesso non lo so, tu vabbè, hai una ricezione tutta diversa da tutti gli altri, magari non so se gli altri riescono ad ascoltarmi, ma al limite ci vediamo di perfezionarlo, no? Ok, Cla. Se ti ascolto io, sei più vicino a loro, dovresti arrivare bene lo stesso. Non penso ci siano problemi, perlomeno. E a me mi ascoltate? Io ti ascolto, Santiago 4, radio bassissima. Ciao Gianni, in giro sì. In giro in macchina sono, c'ho una piedi piccolo, dai. Ancora non ho piazzato quella che devo piazzare. C'ho quella piccolina, l'ho ritirata adesso, l'altra. Adesso la metterò. Sono la metà, ne ho sentito il passaggio già. L'altra metà c'era il QRM più alto del tuo segnale. Anche perché sei sceso anche a 2. Da 4 sei sceso anche a 2. Per cui non ho sentito tutto il passaggio. Vabbè, dai, avanti qua. Vabbè, sei in zona, sta arrivando più di no verso qua, ma sicuramente lì nei presi fusaro qualche parte. Va bene, piazza. Tanto, va niente che va, domani è buon, venuto è matto. Va bene. Ottimo per la zuppa. Ciao Franco, tu sì. Cosa hai detto già? Adesso sono a serra secca, dai. Sto salendo verso Roberto Quadrato, lì con la zona. È partita la chiamata. ci ho fatto l'antennaio a Gianni, guarda, esci, uia, in ogni arucco. Ma fai della roba per tutti che antenna, che è un mese è sempre fatta l'antenna della macchina e ancora non ha risolto il problema come vuole lui. Gianni, faccela fare la lucca l'antenna per la macchina, almeno funziona. Che non ti sento, non ti sento, Gianni, se stai parlando non ti sento più. Il problema non l'ho risolto perché l'antenna era difettosa, se tu non ascolti Giulio, l'antenna era difettosa, stavo aspettando che mi arrivasse l'altra. Cosa ha detto qua? Che l'antenna è difettosa, così ha detto, che deve arrivare l'altra, così ha detto. Che gliela restituita perché era difettosa, capito? E deve arrivare l'altra che non è difettosa, ecco perché se l'ha scambiata. Ah, io okay. Mamma mia, già, questa antenna, ma io prendi tu l'antenna come si deve, non se ne parla più. Hai capito che se vai in macchina ti fa sentire bene, come una volta. Capitina, faccio fatica ad ascoltarti, adesso non è che sei all'alveolo per non sentirti. Sei lì, in quella zona, ti dovrei sentire benissimo, invece faccio fatica ad ascoltarti. Va bene, dai, vediamo se ti ascolto adesso, vai. Come fai a ascoltarmi? Sono in mezzo al palazzo, normale, così a rifugi. Ascoltare l'antenna e gioca mai qua, no? Giulio, che ho messo per farmi qua. Sì, sta parlando Giulio, è in mezzo ai palazzi, non lo senti. Infatti non lo sento, è troppo basso, e vabbè, dai. Aveva una bella stazione in macchina, ragazzi, che arrivava fortissimo anche da Porto Torres. Gianni, anziché progredire, sei andato in regresso. Vabbè, ma se mette l'antenna giusta anche con la base magnetica gestisce bene, con l'altra c'aveva un bel impianto sì, vabbè, aveva il centrotetto, aveva tutto, amplificatore, stufiati, lo sentivo Santiago 9, io come mettevo in moto, poi si posizionava a 9.10, 9.15, anche 9.20, non si muoveva. Sì, ma io mi ricordo, arrivava da Porto Torres e non scendeva mai sotto il 9, raramente proprio scendeva sotto il 9 qui da me. Per tutta la strada lo sentivo benissimo, a voglia, alla grande, proprio con una radio bella, prepotente proprio, va bene, forse utilizzava il 4747, d'accordo, però si faceva sentire, alla grande. Se c'era l'impianto giusto, è così. Dove sei, Gianni? Nella zona della banca? Via Umana. Ah, sì, sei lontano da me, sì. Ti vedo. Oh, io mi vorrei entrare giù con cui. Che è un'antenna che... Ma base magnetica perché ti serve a te? Va bene, ok. Oh raga, dai, io vi saluto, sono 7:20, c'ho un sacco di cose da fare. C'ho gente stasera e devo dare una mano a mia moglie in cucina, insomma, un casino, dai. Ci sentiamo, vi saluto, rimane tutto acceso qua e niente, a più tardi se coincide, dai, datemi un po' di spazio, se no nico gobedi. Lu, rimaniamo d'accordo così, noi ci aggiorniamo su WhatsApp e ci sentiamo dopo, dai, più tardi, ok? Ok. Va bene, guarda se rispondono per quell'antenna, per la 5:20, poi io vedo un pochino, stasera no, stasera adesso non voglio salire su a fare foto, balla e poi. Ma domani mattina dopo che porto il cane salgo, mi faccio due foto e te le mando. E poi per quello che ci siamo detti rimaniamo d'accordo così, ok? Perfetto, ok. Va bene, d'accordo, che rimanga tra me e te, capito? Certamente. Sì, come mi contattano per l'antenna, certo che ti avviso subito. Appena mi dai appunto le foto originali le metto, perché adesso ho messo quella lì, quella che mettono così, è un fotomontaggio alla fine, capito? Esatto. No, domani mattina ti mando le foto così, è montata ancora, perché poi se la buttiamo giù è un casino a fare foto come l'altra, capito? Quella lì è già montata, è ancora montata, ti mando le foto e poi fai tu. Per tutto il resto, poi quando ci vediamo in verticale giovedì, va bene. quello che ti ho detto, ok? Va bene, ok, avanti giù. Ok, d'accordo, stai chiudendo allora, dai, hai da fare. Ci sentiamo prossimamente. Ok, vabbè. Allora tu, fagliela questa antenna giallega, così almeno riusciamo a sentirlo bene da tutte le parti. Ah, se l'ho comprata, cosa fagliela? L'ho comprata adesso l'antenna, mi è arrivata adesso, Giulio. Ascolta, c'era il problema che l'antenna era difettosa, sono andato e me l'ho fatta cambiare, ma mi doveva arrivare ancora, adesso è arrivata. Ma non l'hai montata ancora? No, non l'ho piattata. C'ho quella piccolina SOS che sto usando per il momento, poi dovrò fare il pieno e tutto quanto e poi la piazza. Ah, ho capito, va bene. Allora, sei a posto, allora. Così almeno ti sentirò anche quando sei in un posto un pochino coperto, dai. Va bene, va bene. Va bene così, allora. Andà bene. Allora, Lu. Altre cose stai inventando adesso? Ah, il soldatore che sta fumando. Ah, il soldatore Luca in mano che sta fumando. O già? A me stavate dicendo che ho abbassato il volume perché stavo mandando un messaggio. Ah, appunto, stavo dicendo. Altre cose adesso stai inventando? Sto non inventando, no, non sto inventando. Sto facendo dei supportini in... Vabbè, il progetto c'è quello che ti ho detto. E adesso col software sempre sto facendo dei supportini per delle piccole antenne PMR, ecco, come quella che capisci tu a me, ecco. Ok, sì, ho capito. Andiamo a vedere. Che si tira? No, bello, veramente, quell'attrezzo è veramente una meraviglia, Fa delle cose bellissime, perfette poi. Esattamente uguali di misure e tutto quanto, come quello che vuoi fare, là. Come l'originale suo. Bene, bene. Anche le ciabatte puoi fare con quella affare lì. Le ciabatte per l'estate, o Luca? È un po' rigide rimangono. Però adesso c'è tra l'altro adesso già è un po' che è uscito, ma costa troppo, il filamento in resina, capito? Il filamento in resina per fare determinati pezzi più importanti, diciamo così, ma comunque i cavallotti per dire, per le antenne, per le direttive, per tante altre cose, i supporti, quelli li posso già fare perché i filamenti quelli ce li ho già, capito, come quello che ti ho fatto vedere. Ho capito, sì. Insomma, qualunque oggetto che vuoi, tu cosa fai? Le fai prima la fotografia, così, e dopodiché lo metti nella macchina e ti fai il pezzo giusto, preciso, identico e anche di misura, come è l'originale. Sì, c'è da lavorarci, certo. E anche i supporti appunto che mi sono fatto per il microfono, ci ho lavorato un po' per appunto per fare i prototipi fino a che non ho fatto le misure dei fori originali, perché doveva combaciare poi tutto, capito? Ne ho fatto due o tre prima di arrivare proprio al pezzo preciso. E c'è da lavorarci un po', ma ci si riesce poi alla fine, capito? Poi solo una volta che le misure sono nel software, io non faccio altro che mandare in stampa, capito? Non è che ogni volta, ogni pezzo devo rifare tutto quanto. Ho capito, sì. No, bello, è veramente un bel attrezzo. È un attrezzo che appassiona anche. A me mi appassionerebbe, sono sicuro, ma comunque ormai io a certa età non mi pongo a fare nulla, ma nemmeno per sogno. Stavo dicendo, Lu, ma stai uscendo con la Game Master? No, questa è la mia. No, la Game Master, te l'ho detto, adesso esco e l'abbasso dal palo ascensore perché non si sa mai, ma non dovrebbe soffiarne di vento stanotte. È così che... No, oggi già è tranquillo il tempo, no? Anche domani dovrebbe essere tranquillo. Sì. No, stavo dicendo, ma te la gira, mi fai vedere il segnale se è uguale all'antenna tua con la Game Master. Però se non puoi, pazienza, dai, non fa niente. No, non è che non posso, io devo uscire fuori e portare il cavo dentro dalla finestra. Siccome poi tu qua è tutto incastonato, diciamo così, devo sfilare la radio, staccare dal roadmap, eccetera. Capito? No, per quello. Aspetta un attimo che vedo un po' chi è. E poi niente, per quella roba là, adesso appunto sto già preparando le misure per mandarla in stampa, capito? E così che faccio anche quelle lì, Giulio, quelle bobine per l'antenna. Anche se ci vuole un bel po' di filamento, però. Eh beh, certo, certo, è ovvio. È anche un bel po' di lavoro, oltretutto, soprattutto attenzione, eccetera. Certamente sì. E vabbè. Ascolta, una volta mi avevi mandato tu un programma, mi avevi fatto vedere, che con la radio ho utilizzato il computer, eccetera, eccetera. Già mi hai capito cosa intendo. Cambiavo il canale, tutto quanto. Sì, sì, non è un segreto, no, Giulio, lo usano tutti quel programma lì. Anche la tua radio si può attaccare, c'è un cavo, un'interfaccia appunto che collega al computer, e come io posso fare con questo, non so se te l'avevo mandato il video, faccio tutto col mouse, capito, del computer. Sì, ho capito. E questo cavo com'è? Cos'è, un cavo normale oppure un cavo proprio fatto appositamente, com'è? No, è un cavo apposito apposito per quella di tipologia di radio, capito? Quella tipologia di radio. Questo per esempio va bene anche a 7000 e ad altre radio, però per il tuo ci vuole il suo, capito? Io questi me li faccio fare i cavi da un radioamatore, me li faccio fare appositamente. Ah, ho capito, sì, sì, no, era solo una curiosità, così volevo provare, se fosse stata una cosa semplice avrei voluto provare col computer eccetera eccetera, vabbè, non fa niente. Passiamo ad altro. Tu basta che me lo dici, io lo faccio fare, capito? Lo faccio preparare per quella radio lì. Ma c'è anche su eBay, ma io ne avevo una, non mi ricordo chi me l'aveva data, un'interfaccia, una scatoletta col appunto per quella radio lì che hai tu. Non so se ce l'ho buttato pure col tempo, perché ho guardato anche l'altro giorno spulciando dentro il mobile e non me la sono ritrovata quella scatoletta lì che andava bene. Ho capito, e vabbè, la pazienza non fa niente, intanto qua non ho nemmeno il posto dove ho la radio, perché devo pensare che ci vuole sempre l'antenna, sì, potrei trasferirmi giù oppure su, e allora sì, posso ne ho quanto ne voglio, sia nel salone oppure su nella mansarda, ma qua no, qua sono nella zona notte, per cui non è possibile, pensa che ce l'ho sopra il comodino, proprio perché non volevo che mi arrivasse l'antenna di dritta senza fare molte curve, essendo un cavo un pochino rigido, io ho la Camille come cavo, per cui io preferisco metterlo così, e con la manopola del WFO verso la faccia, verso la parte mia, verso il letto, in modo che quando sono con il gatto allungo la mano e ci lavoro così. La notte ad esempio, quando non c'è qualcosa che mi interessa in televisione, allora metto le cuffie e incomincio a cercare in 80 metri e va bene così. Ok, avanti. Sì, sì, ma anche a costa poco, io comunque ho giù. È la comodità che appunto col mouse, con un tablet, per dire, se hai anche un tablet va bene. Anche il cellulare si può usare, capito? Ma con un tablet hai la schermata più grande, appunto della radio, eccetera, eccetera. Un computer portatile. E fai tutto così. Ah beh, quello è vero, col tablet anche, certo. E ne ho tre tablet, ne ho uno, tre ne ho, pensa un po'. Pensa che vedo le partite di calcio io col tablet. cuoio congegno con un adattatore e attacco tra alla cosa, come si dice, alla televisione, e vedo le partite di calcio con la televisione da 44 pollici, per cui ti puoi immaginare, però ci deve essere sempre il tablet acceso, capito? E vedo le partite così in chiaro con questo sistema, solo che il commento, anziché essere in italiano, raramente in italiano, di solito è sempre in portoghese, però poco mi riguarda il fatto del commento, della voce, a me mi interessa vedere la partita e basta, poi per il resto non mi interessa. Ma certo, io quando voglio connettere appunto internet al televisore, a parte che il mio vabbè è smart, sicché non faccio altro che dal cellulare, apro l'applicazione e si connette tramite il cellulare, capito Giulio? Ma comunque chi non ha la televisione smart TV può comprare un apparecchietto che costa una cazzata ed ecco che sì che puoi collegare la TV a internet, capito? Io molte volte non c'è niente in televisione e mi guardo per esempio video di pesca, tutto quello che voglio, per dire, sulla televisione che è un 40 pollici, direttamente tramite il telefono, capito? Tramite la connessione del telefono, e così potessi fare anche tu. Sì, ma quello sì, no, sempre quello già ho il computer grande, io no, non c'è problema, ne ho un computer qua a voi, addirittura col monitor grande, ne ho monitor, ne ho uno che è 28 pollici, poi ne ho un altro che è 22 pollici, e poi il computer che ho io sono abbastanza grande, per cui non c'è problema. Tu immaginati il tavolino della televisione, quanto è largo, ecco, il tablet che ho io giù, adesso quello portatile è grande quanto è tutta la larghezza del tavolino. Di fianco ho anche un monitor che tra l'altro non lo sto nemmeno usando, ma basta che collego il cavo al monitor, allora posso avere il monitor da 22-24 pollici, una cosa del genere. Poi se non mi basta quello, c'è il monitor grande da 28 pollici, quello addirittura sopra la scrivania di mia figlia, per cui ti puoi immaginare, non me ne mancano di quelle cose, avuglia, tablet, computer, ne ho due da base di computer, poi ne ha due mia figlia, uno ne ho io e uno ne ha mia moglie, di computer sempre, tutti grandi, e più tablet ne abbiamo tre. Figurati, lui così cattedirà i pesi e poi bastava uno, vabbè, comunque ce li ho e basta, non è un problema. Però è bello anche, come ti dicevo, collegarlo alla televisione, il telefono, che è una cazzata perché c'è un'applicazione facilissima tra l'altro, e tu puoi guardare dal telefono, da YouTube, film, tutto quello che vuoi sulla televisione, capito? Tu che hai, tra l'altro, hai la DSL. Sì, ho la DSL e la fibra anche, tra l'altro. Da poco abbiamo messo una fibra qua, anche se diciamo che la fibra arriva al ripetitore, dal ripetitore a casa, poi è sempre via cavo, perché ancora non è completo l'impianto, però mi è servito anche per abbassare il costo, perché prima pagavo 50, 57, 58 euro al mese per la DSL, adesso invece ne pago 42, una cosa così, sicché ho risparmio 15 euro al mese di bolletta, anche da quello, è perché non ho voluto poi che prendessero i soldi direttamente dal conto corrente, se no avrei risparmiato ancora una decina di euro al mese, ma siccome a me non mi va di fare utilizzare da troppa gente il conto corrente, allora ho preferito, non me ne frega niente, pago i buoni 10 euro, 9-10 euro in più al mese, però è quella bolletta e basta, capito? Senza passare per via della banca, capito? No, invece io già è già un bel po' che ho tolto la linea DSL, capito? Ma perché? Perché io uso il telefono. Io quando accendo il computer mi connetto direttamente al telefono, hai capito Giulio? E pago 8 euro al mese. Non cioè quando devo usare il computer così apro l'hotspot nel telefono e mi collego direttamente al computer, capito? Perché anch'io prima va bene, pagavo 19,90 con Tiscali, però ho detto, cioè sono 38 euro ogni 2 mesi, mi uso il telefono e uso la connessione del telefono, intanto con tutti i giga che ti danno non riesci manco a consumarli, capito? Allora me li uso così, se mi serve il computer attacco l'hotspot dal telefono e si connette al computer, alla televisione. No, fine di giorno si tempo il regalatina. Sì, anch'io ce l'ho nel telefonino, però a noi ci serve la DSL in casa perché mia figlia ci lavora col computer, capito? Per cui non è che posso utilizzare il telefonino per quelle cose lì. Io volendo posso utilizzare, ce l'ho stesso nel computer, io ce l'ho. Se io vado fuori da qui, vado a prendere la sua città, io ce l'ho stesso presso il computer, perché ce l'ho nel telefonino e pago 7,90 euro al mese Vodafone e ho le telefonate illimitate, 50 giga e ogni mese io faccio un versamento di solito faccio la ricarica di 10 euro e poi arriva il giorno che non c'è bisogno di fare la ricarica perché con la rimanenza che rimane dai 7,90 non passi, può raggiungere la cifra e vado avanti per un altro mese, va bene così. E soprattutto quando sono a casa io mi collego direttamente alla linea di casa perché il telefonino mia figlia me l'ha interfacciato con la linea di casa, per cui i giga del telefonino non li potrò mai consumare, io vado diretto con la linea della TIM, perché io ho TIM come fibra, no? Capito? Sì, perché il wifi e il cellulare si connette in automatico quando tu arrivi nel raggio d'azione del tuo router, quello sì. No, vabbè, se lo usa per lavoro allora è diverso, siccome io non lo uso per lavoro, lo uso per entrare su eBay o per fare tante altre cose, per guardarmi video, sicché mi sta bene così, capito? C'è qualcuno, chi c'è rimasto? Non lo so, avanti. No, non c'era nessuno, no. Tutti erano andati via. Claudio è andato ad aiutare in cucina, Luca Del Monte, non c'è, si è allontanato. Sì, ma è così, e beh certo, sì, mia figlia ci lavora qua, no? Anche se poi all'ufficio, a Sassa è lo stesso, c'è il telefono con la linea fibra stesso, uguale, però a Sassa la usa solo in determinati momenti, perché quando gli occorre per fare delle riunioni di lavoro, eccetera, no? Anziché portare le persone qua, perché sennò mia figlia del dell'ufficio ce l'ha qua, lavora qua. Praticamente, però non manca l'occasione che intanto deve salire a Sassari e apre l'ufficio e lavora lì, però solo esclusivamente quando se deve ricevere, che so io, se deve parlare con delle persone, con dei sindaci per dire, che so io, con degli assessori, con qualche presidente, tutte queste cose qua, no? con i vigili, con tutti, insomma, ecco, perché lavora con tutti, lavora, no? Con la forestale, eccetera, eccetera. Allora l'appuntamento glielo dà lì in ufficio a Sassari, capito? Non me le porta qua, no, le persone, ci mancherebbe altro, così non siamo in Piazza Italia, no? Beh certo, sì, ma cosa si intende allora comprarli da casa? Lei sta aspettando che tu li compri da casa per essere indipendente e tu ancora non hai capito. E non ce l'ha a casa, ne ha due. La mia gliel'ho già intestata, tu ce n'è un'altra. Aspettate, ne ha due, cosa? E quanto mi devo avere le case? Non so qui, boh. Tu al magazzino, all'ufficio, ma c'è un canto di bambini. patrulla, infatti la posta di Santa Mondetta è di tasse quest'anno, 6.000 euro pagato di tasse quest'anno, mi avrai tu, no, non è poco, 6.000 euro di tasse di denuncia del Vinci. Ma allora non ho capito bene, se vivo è con voi, c'ha due case, vabbè, una